posso restare un attimo senza guardare, stare chiuso dentro un incubo ma mai dimenticare, tralasciare vecchie strade per riaprirne altre. Voglio rivivere da solo, uscire da tutta sta coltre. D'altronde posso spingere la mia autodistruzione, sparire per poi ripartire con coordinazione. La nazione è tutta in guerra, la lezione giusta sferra, attacchi sul tuo nemico prima che stai sottoterra. Dimentica chi fa promesse, queste stesse sono pronta a giocarti in scommesse, anche se c'hanno figa e tette. Bollette strasalate con queste rossommazzate, vini poco gustosi per calar brutte giornate. Quanti sono i desideri, mille sogni o che pensieri, sensazioni di riaverne, regni tersi di più controsensi. Quanto mi pensi, dimmi come ti senti, se prima per restare uniti stringevamo i denti. Frammenti di paure susseguiti da notato scure, testi così spenti, privi di rime più pure. Si deduce che il mio stato d'animo non sia il migliore, scendo giù a fare due passi anche se so che fuori piove. A colezione caffè scuro, tanto dolce per correggere l'amaro di un boccone che non vuole proprio scendere. Mi sa che questo giorno è da archiviare come tanti, ma se ti incanti, con quale forza guardi avanti? Se manchi a questo mondo, ma chi vuoi che se ne accorga? Solo quei pochi cari e tutti e qui devi qualcosa. Voglio vivere, recuperare stimoli per credere, non voglio cedere a lacrime gelide sull'etere. E da rifare tutto come l'altra volta, quello che importa, che forza dentro non ha scorta. Fuoco che bruciava dentro un uomo un tempo. Dov'è quel tempo spento dal passato ancora acceso? Nessuno ha reso, rivoglio solo ciò che ho perso. La speranza in una stella che è strappata al mio universo. So che è diverso, il raccolto dalle semine, ciò che mi ha dato il frutto è la speranza delle lacrime. Ma sappi che ogni pianta ed ogni lacrima versata, data questa mia anima è il peso di una triste giornata. Se troverò ciò che avevi più non ho, trovare quella luce che per sempre seguirò. Se tengo il distinto dall'alfa all'omega, può darsi che risvegli ciò che spirito è che vaga. Ma la vita non rende ciò che io rivoglio, risfoglio ricordi trascrivendoli in un foglio. Solo, disperso nella vita in mezzo al suono. Dio, perché tieni ciò che male, prendi ciò che buono. Sono ritmi stabili, ciò che muovo i miei passi. Salvo le eccezioni, tutto il resto son sorpassi. Scazzi durante il giorno, lacrime e la notte. Spazi in mezzo al tempo per coprire queste note. La vita, l'eleganza di un valzer, piedi nudi. Passi armoniosi con altre tanti crudi. Sudi e risudi, delle tue forze abusi. Scusi e riscusi, poi ti mettono gli scudi, giuri di portare sempre un peso nella schiena. Freni questo treno che ti oltrepassa la schiena. Ti passa di sparare o di sparare in una vena. Ti passa di passare a fianco un fiume che sta in piena. Frena, rimane una sola cosa a cui credere. Che è morto in una croce per far sì che possa vivere. Non è il male che tenta di tentare per rivincere, ma è il bene che risorto come lui voglio rivivere.